Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Molto bene la borsa, anzi continua a migliorare, va verso il 4% in rialzo dell'S&P MIB con un caso che si chiama Fiat. Oggi Fiat sta guadagnando il 23,5% a 6,56 euro l'ultimo prezzo, praticamente ha guadagnato, per darvi un'idea di quello che sta succedendo sul titolo, un 5% nell'ultima ora, e il Banco Popolare segue con un più 12,7%, Geox più 6,7%, Unicredit più 6,6%, Autogrill più 6,6%, Tenaris più 5,5%, e poi tutta una pattuglia di titoli che guadagnano tra il 4 e il 3%, STMicroelectronics 4,7%, Mondadori più 4,3%, Bulgari più 4,1%, UbiBanca più 4%, Saipem più 3,90%, Eni più 3,85%, Buzzi Unicem più 3,74%. Chiudiamo con Generali più 3,6%, Pirelli più 3,5%, come Mediaset, e Mediobanca più 3% come Alleanza Assicurazioni. C'è qualche titolo che perde? E penso per esempio ad Ansaldo STS, meno 2,5%, Parmalat meno 1,5%, Finmeccanica perde l'1, Snam perde lo 0,70 come Terna. Ma insomma, in generale sono fortissime oggi tutte le borse, e devo dire che a questo punto siamo alla terza settimana in cui, per carità, con anche giornate di realizzi, di cali, ma almeno non si può più dire che domini solo il segno meno sulle borse europee e le borse in generale, perché Parigi guadagna il 4,81, Francoforte il 5,5, Londra più 3,5, l'America anch'essa è fortissima, più 3,1%. Motivi poi li daremo, li ricorderemo. L'euro è anche in rafforzamento a quota 1,35 nei confronti del dollaro. Il tutto, vedo che già alcuni di voi scrivono, ma non è legato a Londra, ai G20, anche perché i G20, da quello che capiamo, sono un po' in difficoltà, hanno fatto slittare tutti gli orari delle conferenze stampa previste, quella conclusiva di Gordon Brown è adesso iniziata, la vedo sullo schermo, poi ci sarà quella del Presidente del Consiglio Berlusconi, quella di Barack Obama dovrebbe arrivare verso le 19. Ma insomma, le difficoltà, e ne parleremo in apertura del G20, sono nate soprattutto in tema di regole e di come trattare i paradisi fiscali. Ma mentre loro discutono, la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi non quanto ci si attendesse. C'era chi sperava o pensava, ipotizzava un taglio di 0,5 punto percentuale, ma in realtà il taglio deciso oggi a maggioranza, è il sesto taglio consecutivo, ha portato i tassi di interesse dall'1,5% all'1,25%, ed è ovviamente un nuovo minimo storico nel costo del denaro da quando esiste l'euro. A questo punto la differenza tra quanto costa il denaro negli Stati Uniti e quanto costa nell'area euro è intorno all'1%, 1,25%, in America infatti i tassi di interesse sono tra lo 0 e lo 0,25%, ed è anche il sesto taglio consecutivo dallo scorso 15 ottobre, quando i tassi, lo ricordo, erano al 4,25% in Europa. Vedo adesso Gordon Brown che dichiara: sono state gettate le fondamenta per un nuovo ordine mondiale. Sta parlando in questo momento Gordon Brown in quella che è la conferenza stampa di tutti i G20, e vedremo anche se riusciamo a collegarci con Londra. Un po' di difficoltà con i collegamenti ci sono, vista anche il numero di conferenze stampa presenti. Parleremo anche di altri temi, anche se questi due temi, tassi, borse e G20, la faranno da padroni in questa puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Allora, al di là dei tassi di interesse e della decisione del G20, le altre notizie, per quello che riguarda i mercati, il petrolio è cresciuto parecchio oggi, ha superato i 52 dollari al barile, ma si è avuta anche notizia di un accordo tra la tedesca KS, che è il primo produttore europeo di sale, per acquisire la Morton Salt da Dow Chemical, pagandola 1 miliardo e 670 milioni di dollari. A questo punto il numero uno del sale al mondo sarà tedesco, appunto la tedesca KS. Andiamo avanti con le notizie per quello che riguarda sempre i mercati. È sceso all'1,48% l'Euribor, nuovo minimo storico. Il taglio dei tassi di interesse, quindi entriamo nel vivo del programma. Il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha detto: il taglio l'abbiamo deciso all'unanimità, possono scendere ancora i tassi, anche se non è previsto nel futuro un taglio del tasso per quello che riguarda i depositi. Quanto all'inflazione, Trichet ha annunciato resterà andrà negativa, quindi andrà in deflazione a metà anno. Era una previsione già diffusa un mese fa nell'ultima conferenza stampa della Banca Centrale Europea. Ci attendiamo appunto che l'inflazione dell'area euro diventerà negativa a metà anno. Ascoltiamo un passaggio della conferenza stampa di Jean-Claude Trichet, appunto, in cui commenta la decisione di ridurre di un altro quarto di punto il costo del denaro. Come sempre abbiamo avuto un dibattito molto, molto approfondito sulla situazione attuale. Abbiamo analizzato lo scenario da tutti i punti di vista e abbiamo preso una decisione raggiungendo un consenso. Oggi tutti e tre i tassi, quello principale sui depositi e quello marginale, sono al livello minimo di sempre. Il tasso sui depositi è allo 0,25%, un livello molto basso. Livelli così bassi non si sono chiaramente mai visti dalla creazione dell'euro. Sono i minimi storici. Ripeto, oggi abbiamo esaminato la situazione da tutti i punti di vista e abbiamo deciso per consenso. Se è il livello più basso, dirò molto sinceramente che per il tasso principale non è il livello minimo. Non escludo che in modo molto, molto misurato possiamo scendere ulteriormente. In a very measured way, go down from the present level. Così il presidente della Banca Centrale Europea, e ha detto anche Trichet che la Banca Centrale Europea deciderà a maggio su ulteriori misure non convenzionali, quindi non solo i tassi di interesse. Ha rinviato comunque al mese prossimo per i dettagli di queste possibili misure. Dati americani. Allora, continuano a crollare i prezzi delle case in America. Dopo il dato complessivo di un meno 18%, oggi per esempio si è saputo che a Manhattan, e quindi insomma la parte più cara di tutta New York, i prezzi sono scesi degli appartamenti dell'11%. Praticamente le quotazioni medie sono scese a 749.000 dollari, meno 11% nel primo trimestre di quest'anno. E ancora dall'America, sussidi alla disoccupazione peggiori delle stime, 12.000 in più a 669.000 sussidi per quello che riguarda la settimana scorsa, mentre per quello che riguarda la polemica sui manager delle banche salvate dallo Stato in America, ebbene, secondo il segretario al Tesoro americano, che è il ministro dell'economia, Timothy Geithner, i manager delle banche salvate dal governo americano potrebbero fare la stessa fine del numero uno di General Motors, Rick Wagoner, ossia essere spinti a lasciare il loro incarico. Fiat e Chrysler. Non abbiamo notizie dell'accordo o di come si stia perfezionando l'accordo. Ricordo che ci fu lo scorso gennaio una firma preliminare tra Fiat e Chrysler che prevedeva che il lingotto si comprasse il 35% del gruppo americano, dando in cambio piattaforme produttive e motori, quindi senza pagare nulla. e ottenendo poi un'opzione per comprarsi il 55% della Chrysler. Certo è che anche questa vicenda influisce non poco, c'è un boom della Fiat in borsa e non solo quanto a variazione percentuale, ripeto, adesso guadagna il 26% Fiat a 6,68 euro, incredibile, ma anche i volumi, gli scambi sono fortissimi. Resta da vedere poi quale sarà la quota della Fiat in Chrysler, perché l'accordo preliminare che ricordavamo prevedeva una quota del 35%, poi le ultime notizie dicono che la quota di Fiat in Chrysler potrebbe essere del 20%, non cambia però il perimetro dell'operazione, cioè senza sborsare denaro, questo si è capito perlomeno da quello che è uscito, anche perché ieri gli incontri sono stati lungo tutta la giornata. Sergio Marchionne ha incontrato non solo il numero uno di Chrysler, Robert Nardelli, tra l'altro si sono incontrati nella sede del Tesoro americano a Washington, ma vi sono stati anche incontri a livello di altri esponenti. Praticamente, secondo quanto ha detto dichiarato Marchionne ieri, la più piccola di quelle che sono le tre sorelle dell'auto in America, e quindi GM, Ford e appunto Chrysler, non dovrebbe far ricorso al bancarotto. È certo che a influire su Fiat c'è anche il dato di ieri sulle immatricolazioni in Italia, che sono tornate a crescere, più 6% la quota Fiat. In Germania oggi più 40% le vendite di auto grazie agli incentivi alla rottamazione, è il record dal 1992. E allora, primo tema, come ieri anche oggi, il G20, conferenza stampa in corso di Gordon Brown in quanto ospite. Volete il gallo? Beh sì, dai, oggi il gallo sulla borsa ci sta, avete ragione, era colpa mia, e allora gallo sia, visti i rialzi, siamo al 4,5% adesso sull'S&P MIB e al 27% su Fiat. Gallo, pollaio, insomma, quello che volete, insomma, è il nostro simbolo per le giornate ben impostate in borsa. Dicevo, adesso torniamo alle cose anche serie, i G20 di Londra. G20 di Londra, rest divisione sui paradisi fiscali, ma sta parlando Gordon Brown, un qualche passo in avanti sulle regole, e si è saputo dal G20 che il Fondo Monetario Internazionale avrebbe raggiunto un'intesa per una linea di nuovi fondi per 500 miliardi di dollari, quindi se la decisione sarà poi presa, il capitale del Fondo Monetario Internazionale sarà triplicato, passando dagli attuali 250 a 750 miliardi di dollari. Sergio Nava, il nostro inviato a Londra, buonasera Sergio. Buonasera. Tu stai seguendo la conferenza stampa di Gordon Brown, poi ti sposterai a quella del presidente Berlusconi e poi ci sarà anche quella di Barack Obama. Che cosa è emerso? È vero che il nodo e lo scoglio più grosso si chiama ed è stato rappresentato dai paradisi fiscali? Sì, è stato rappresentato proprio dai paradisi fiscali. Gordon Brown in realtà in conferenza stampa non è stato chiarissimo su quanto sia stato superato questo scoglio, perché ha semplicemente detto che l'idea, ma su questo già c'era un accordo, è quella di mettere fine ai paradisi fiscali. Poi quali siano, la lista non è stato effettivamente molto esplicito a riguardo. Volevo riprendere la metafora del gallo che avevi usato poco fa per dire che è un Gordon Brown decisamente ringalluzzito quello che si è presentato in conferenza stampa, non ha risparmiato assolutamente la retorica, ha detto oggi emerge un nuovo ordine mondiale governeremo grazie a questo nuovo ordine mondiale, alla globalizzazione. Ha dato un rilievo assolutamente storico a questa data e a questo incontro. Brown ha come dire, messo nero su bianco il piano in 6 punti del G20, della conclusione del G20, e allora il primo punto l'abbiamo già detto, la fine dei paradisi fiscali e la riforma del sistema bancario, anche quindi maggiore responsabilità a livello corporate, e poi il secondo punto, ripulire le banche, gli asset tossici, gli impaired assets come vengono definiti in inglese. Terzo punto, l'hai anticipato poco fa, e cioè i nuovi 500 miliardi per l'FMI e 250 miliardi che saranno a disposizione di tutti i membri dell'FMI attraverso gli special drawing rights, sono appunto un paniere di riferimento da cui si può attingere per avere degli ulteriori prestiti. Il quarto punto, la maggiore indipendenza delle istituzioni finanziarie, e quindi nomine anche per merito, non più lottizzate tra Europa e Stati Uniti. Quinto punto, il rilancio del commercio. Per chiudere Doha, ci saranno 250 miliardi messi a disposizione per i crediti all'export, e ultimo punto, una maggiore sostenibilità dell'economia. Questi quindi i 6 punti, diciamo, a grandi linee della G20 che si è chiuso poco fa. Allora Sergio, io rimando ai tuoi prossimi collegamenti, appunto conferenza stampa di Brown conclusa, conferenza stampa di Berlusconi alle 18 ore italiana, se ho ben capito, e poi alle 19 ore italiana quella di Barack Obama. Grazie per ora Sergio Nava, e per fortuna non si segnalano particolari tensioni oggi a Londra, un po' di preoccupazione ieri sera dopo che è arrivata la notizia del morto, però oggi la situazione è abbastanza tranquilla, adesso non vorrei tirarmela, ma insomma da quello che vediamo è abbastanza tranquilla. Invece io ricordo che il G20, oltre che prendere decisioni importanti a livello operativo, rappresenta anche la definizione, in questo Gordon Brown ha probabilmente ragione, di un nuovo ordine mondiale. Spesso viene citato Bretton Woods, gli accordi che posero fine alla convertibilità del dollaro in oro e segnarono l'avvio della supremazia del dollaro a livello mondiale. Bretton Woods era degli anni 70, qui siamo nel 2009. C'è chi teme, e lo scrive oggi Gian Giacomo Nardozzi sul Sole 24 Ore, che in realtà un atteggiamento europeo, dell'Europa continentale un po' troppo spocchioso, possa creare dei grossi danni nel futuro, nel nuovo ordine mondiale, proprio al ruolo dell'Europa. E allora ringrazio per essere in collegamento con noi Gian Giacomo Nardozzi, che insegna economia al Politecnico di Milano ed è anche appunto editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore. Buonasera. Lei oggi scrive in prima pagina sul Sole 24 Ore la miopia dell'Europa, ricordando come questi G20, questo gruppo dei G8 allargato a 20 paesi, non si presenti sotto i migliori auspici per l'Europa. Vorrei capire perché l'Europa è miope, poi arriviamo anche alla cronaca di oggi. Ma io l'Europa, insomma, dimostra miopia nel non andare incontro alla mano tesa e alla posizione molto conciliante della nuova amministrazione americana di Obama, cosa che converrebbe, a mio parere, invece all'Europa dell'euro, perché qui stiamo parlando soprattutto dell'Europa dell'euro, perché la Gran Bretagna è molto più allineata con gli americani ed è anche il paese che ospita il summit. Gli Stati Uniti hanno chiesto un maggior impegno da parte dell'Europa dell'euro negli stimoli fiscali per contrastare la recessione. Su questo fronte c'è una chiusura confermata, mi sembra, anche ieri dalla conferenza stampa congiunta della Angela Merkel e di Nicolas Sarkozy. C'è una chiusura e c'è un'insistenza particolare su questa questione dei paradisi fiscali, che tutto sommato è la cosa, a mio parere, meno urgente, insomma, perché prima bisogna cercare di evitare le conseguenze che possono essere anche di instabilità sociale, come già cominciamo un po' a vedere in Francia, no? Di questa gravissima recessione. Poi, insomma, i paradisi fiscali possono, secondo me, attendere. All'Europa converrebbe andare incontro alla richiesta degli Stati Uniti, perché in questa maniera riesce a contenere gli effetti veramente questi destabilizzanti sull'economia mondiale degli grossi squilibri che verranno accumulati dagli Stati Uniti se li lasciamo soprattutto loro combattere questa crisi. Squilibri di debito pubblico, squilibri di debito estero, rischi di inflazione con l'inondazione di moneta che sta avvenendo, che è già avvenuta e che sta ancora avvenendo. Quindi da un lato contenere gli squilibri che sarebbero destabilizzanti poi per la stessa Europa, e dall'altro entrare nel gioco grosso che è quello della definizione del nuovo ordine monetario internazionale, che significa valorizzare l'euro, cioè l'euro è nato con l'ambizione, no, di sostituire progressivamente il dollaro. Il dollaro. Arriveremo a questo, quindi se ho ben capito lei dice l'Europa si preoccupa più dei paradisi fiscali e di ricordare ogni giorno all'America che la crisi è nata in America, quindi loro sono i maggiori responsabili, devono risolversela loro, questa è la linea soprattutto franco-tedesca, mentre avrebbe più senso in questo momento non lasciare che l'America si ne esca da sola da questa crisi, cioè avere un ruolo attivo, altrimenti l'America ne esce per i fatti suoi creando squilibri commerciali e anche di debito a livello mondiale, cioè imbarca debito e imbarca a questo punto anche, continua a imbarcare disavanzo commerciale, però poi noi non giochiamo un ruolo attivo. Teme, come temono molti opinionisti in questi giorni, che alla fine tutto si risolva a danno dell'Europa con la creazione del cosiddetto G2 o G3, cioè Stati Uniti, Cina e Russia, che decidono poi quello che sarà il prossimo assetto economico finanziario del mondo? E certo che lo temo, è proprio per questo che l'Europa dovrebbe fare di tutto per evitarlo, perché a questo punto l'andamento dell'euro, come già abbiamo visto negli anni passati, l'andamento dell'euro sarebbe di risulta di quello che viene deciso a livello di Stati Uniti, Cina, mettiamoci anche la Russia adesso, quello non so quanto, soprattutto quello per motivi, diciamo, di ordine militare. Ecco. E quindi sarebbe un vaso di coccio, diciamo, e alla fine quello che secondo me il paese che ha più da temere per cose di questo genere è il paese maggiormente esportatore, che è la Germania. E anche l'Italia. Certo. Quindi lei dice e quindi giocare questa partita della risistemazione dell'ordine monetario internazionale per l'Europa è essenziale. Non sta ponendo in questo G20 le premesse per farlo. Se posso in qualche modo forzare l'analisi, facciamo i capricciosi con il senso di superiorità manifatturiera della Merkel, il senso di superiorità tout court di Sarkozy, ma non capiamo che se non risultiamo, non restiamo un interlocutore privilegiato per l'America, l'America gira lo sguardo, ammesso che non l'abbia già fatto, verso la Cina, con la Cina decidono quale valore dare al dollaro, anche perché sappiamo che un terzo del debito americano è in mano cinese, quindi la Cina può diventare il grande finanziatore del debito americano, decidono loro il valore del dollaro e noi di risulta avremo l'euro a 1,50 o a 70 centesimi a seconda di quello che convenga di più a Cina e Stati Uniti. L'idea che porta avanti la Cina di una moneta sovranazionale, l'America non è che la veda con favore, però avrebbe dei vantaggi per gli europei se arrivasse, come il premio Nobel Mandel sostiene da tempo, la moneta unica a livello mondiale? Sì, ne avrebbe grossi. È nella moneta sovranazionale che l'euro può essere valorizzato. E quindi il vantaggio sarebbe per l'euro se vi fosse una moneta unica? Certo. Beh, insomma, non, un vantaggio non da poco. No, lo dico perché salutarla, professor Nadozzi, perché alcuni ascoltatori scrivono al 349-238-6666, ma insomma, parlate di scenari. Attenzione che gli scenari geoeconomici poi vanno a cadere in maniera verticale sull'attività di impresa. Se l'euro va a 1,50 è più difficile esportare, se l'euro va a 80 centesimi ci costa di più il prezzo del petrolio. Cioè un'Europa che vive sempre di risulta le decisioni degli altri è un'Europa che ha più difficoltà competitive. Non guardiamoci sempre la punta dei piedi. E la posizione franco-tedesca ha irritato non poco l'America e la Gran Bretagna. Quindi non sono temi così, diciamo, teorici, visto che poi l'euro è la valuta con cui noi andiamo ad esportare nei vari mercati mondiali. Grazie a Gian Giacomo Nardozzi, economista al Politecnico di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, le informazioni meteo, la pubblicità, poi la borsa con il caso dei casi oggi Fiat, che ha chiuso con un più 27%. Ha preso, solo da quando inizia il programma, 4 punti, nell'ultima ora ne ha presi quasi 10. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiudiamo la parte dedicata al G20 con delle dichiarazioni che riguardano le nostre imprese. Le ha fatte oggi la Presidente di Confindustria Marcegaglia nel corso dell'incontro sull'Expo di Shanghai 2010, visto che poi noi ospiteremo l'Expo successivo 2015 a Milano. Incontro con vari partecipanti, tra cui il commissario designato per seguire a Shanghai, come Shanghai, come la Cina sta organizzando l'Expo per poi portare questo know-how anche in Italia, mi riferisco a Beniamino Quintieri. E dicevo, a margine di questo incontro la Presidente di Confindustria ha detto, beh, insomma, il G20 dovrebbe portare soluzioni concrete, mi auguro che porti soluzioni concrete, ma soprattutto relativamente alle nostre imprese, le nostre imprese ci sono nonostante la crisi, e ha ricordato sia il ruolo dell'Expo 2010 a Shanghai, ma anche della missione delle imprese italiane in Russia che si aprirà lunedì, ripeto, la seguiremo. Focus Economia lunedì sarà parzialmente in diretta da Mosca e poi comunque avremo approfondimenti ogni giorno per i 4 giorni della missione. 500 le imprese che seguiranno la Presidente Confindustria, le principali banche italiane, il Presidente del Consiglio e vari ministri. Allora sentiamo il ruolo di Expo 2010 a Shanghai, ma anche della missione in Russia. Voglio proprio sottolineare questo aspetto. In un momento di crisi così profonda le imprese italiane ci sono, le imprese italiane hanno creduto in questo progetto Shanghai 2010, hanno investito in modo significativo, hanno dato una risposta. Mi ricordo, ne parlavamo Beniamino qualche mese fa, no? Ed eravamo quasi entrambi stupiti della grande risposta vera, concreta, che le imprese italiane hanno dato in questa occasione, così come voglio anche ricordare che lunedì parterà questa grande missione che appunto il Sistema Italia porterà avanti in Russia, la più grande missione mai fatta dal Sistema Italia. Porteremo più di 900 persone anche qui a testimoniare che nonostante la crisi gli imprenditori italiani ci sono, hanno voglia di continuare a investire, hanno voglia di continuare a esportare, hanno voglia di continuare a esplorare mercati in parte nuovi, in parte già presenti, ma con potenzialità ulteriori di crescita. Così la Presidente degli Industriali Emma Marcegaglia. Adesso chiusa la parte che riguarda il G20, apriamo quella che riguarda la borsa, e oggi ce n'è parecchio. Migliore, la migliore Francoforte più 6,1, poi Parigi più 5,4 e Londra più 4,45%. Bene anche Milano, più 4,6 sul Mibtel, più 4,8 sull'S&P MIB. Alcuni di voi mi ricordano che è la quarta settimana di rialzi. Sì, diciamo così, è la quarta settimana in cui la borsa non va solo male, per cui non è vero che siano stati solo rialzi. Alcuni di voi ricorderanno come è iniziata la settimana, però sicuramente rispetto ha una borsa tutta orientata con la lancetta verso il segno meno, stiamo assistendo quantomeno al cosiddetto otto volante, meno 10 più 10, meno 20 più 20, sappiamo tutti che se perdi un 10 e poi fai un più 10 hai recuperato solo una parte di questo, ma insomma potrebbe essere con la massima cautela il giro di boa, sempre difficile, ma almeno non si continua a scendere come prima senza capire dove fosse il fondo. Potrebbe essere comunque la borsa di Fiat. Parleremo in maniera dedicata, diciamo così, perché il 27% di oggi a 6,75 euro, ultimo prezzo. Pensate che prima che aprisse la borsa l'ultimo prezzo di ieri era a 5,31 euro, ha guadagnato 1,40 euro solo oggi. Complimenti a chi se l'hai comprate ieri, ha guadagnato quasi il 30% in un giorno. Bene anche il Banco Popolare, molto bene, più 12,80%, Ubibanca più 8,6%, Pirelli più 8%, Unicredit più 7,5%, Geox più 6,80%, Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Radio Corri, Sole 24 Ore. Lasciamo stare Fiat, perché ne parliamo dopo. Partiamo con Banca Popolare, ma anche Pirelli più 8, Ubibanca più 8, Unicredit più 7,5. Insomma, quello che vuoi tu, oggi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Direi Banca Popolare, Pirelli e anche gli energetici. Sì, allora, il Banco Popolare oggi ha guadagnato il 12,8%, portando a oltre il 38% i guadagni delle ultime tre sedute. Allora, secondo gli operatori, il mercato ha apprezzato in particolare la pulizia di bilancio effettuata dall'Istituto di Credito, come ha ribadito lo stesso numero uno Pier Francesco Saviotti in un'intervista ieri al Sole 24 Ore. E il mercato ha inoltre apprezzato anche la tempistica del piano industriale, che secondo il Messaggero verrà presentato dopo l'estate o al massimo nei primi del 2010. Saviotti ha rassicurato quindi gli investitori sulla qualità del portafoglio crediti della banca e ha confermato la prospettiva di un possibile ritorno al dividendo sull'esercizio 2009. Inoltre, riguardo alle cessioni, Saviotti ha dichiarato che Effibanca è l'unico asset importante, ma in caso di tempesta la società ha altri asset non strettamente strategici che sono cedibili sul mercato. Per quanto riguarda Pirelli, invece, le azioni sono salite di oltre l'8% e hanno beneficiato, oltre al rialzo del settore auto in generale, che in Europa ha guadagnato oltre il 12%, del balzo della concorrente Michelin a Parigi. E Michelin avrebbe beneficiato, secondo gli operatori, del fatto che un fondo americano è salito al 10% del capitale. Le azioni della società sono salite infatti del 16,8%. Beh, insomma, vari elementi per ognuno di questi titoli. Le informazioni per chi è in viaggio adesso, poi vorrei continuare anche con chi oggi meno bene se l'è cavata, penso a Finmeccanica, ma non solo, e poi sul settore energetico, chiaro che, come tu ricordavi, anche il petrolio sopra i 50 con un balzo è servito. Per quello che riguarda l'Eni c'è anche la conferma da parte del numero uno Scaroni dell'offerta per il giacimento di Nassiriya, e quindi petrolio iracheno, Livia. Per quello che riguarda altri titoli invece ci sono anche casi più singoli. 349-238-6666, ne parliamo dopo le informazioni per chi sta viaggiando. Di nuovo in diretta, Livia Zancaner. Si diceva, al di là di Banco Popolare, Edison, qualche presa di profitto invece su titoli come Ansaldo, STS, meno 2,7, Terna, meno 1,80, e anche Finmeccanica perde mezzo punto percentuale. Sì, allora, per quanto riguarda Finmeccanica e Ansaldo, allora Finmeccanica risente delle prese di profitto dopo due sedute di rialzi, mentre oggi il presidente amministratore delegato Pier Francesco Guarguaglini ha confermato che il gruppo risentirà dei tagli al budget della difesa americana, ma in modo inferiore comunque rispetto ai concorrenti americani. Le vendite hanno poi colpito anche la partecipata di Finmeccanica Ansaldo STS, che ha segnato un incremento del 12,5% dal 20 marzo scorso alla chiusura di ieri, in quanto la società si è recentemente aggiudicata vari contratti, tra cui uno da 16,8 milioni in Germania, e ha dichiarato di avere 300 milioni di euro da investire in 4 anni, di cui 100 già probabilmente verranno investiti quest'anno. Per quanto riguarda Tern, allora, la società ha perso l'1,8% e ieri praticamente Fitch, come però era già stato annunciato a febbraio, ha tagliato il rating della società dopo il perfezionamento dell'acquisto della rete da Enel. Quindi Fitch ha abbassato il rating di lungo termine ad A da A+, e quello e l'altro su da A+ ad A-. E questo per quello che riguarda anche il titolo. Torniamo a chi molto bene si è comportato, visto che ci chiedete anche i migliori e i peggiori. Oggi, un caso abbastanza incredibile, ma Fiat è il migliore in assoluto, più 27,1%, poi segue Icon più 26%, anche la Fiat Privilegio più 20,1%, le risparmi non convertibili più 16%, bene anche BMW più 16%. Allora, dell'accordo con Chrysler parleremo tra un attimo. A questo punto però, Livia, vediamo di capire i volumi, oltre che il rialzo su Fiat, e il ragionamento del mercato, anche se forse è un po' eccessivo dire che il mercato ragioni, ma insomma gli elementi che hanno mosso il mercato. Sì, allora, innanzitutto bisogna segnalare che oggi i volumi su Fiat sono stati record, in quanto gli scambi sono stati pari a oltre 14% del capitale per 155,5 milioni di pezzi scambiati. Allora, secondo gli operatori, quindi, le azioni del lingotto hanno beneficiato dei dati sulle matricolazioni confortanti di marzo sia in Italia sia in Germania, mentre appunto il mercato aspetta novità sull'alleanza con Chrysler. Infatti Fiat e Chrysler lunedì hanno ufficializzato l'accordo di alleanza globale, ricevendo parole di apprezzamento da parte dello stesso presidente americano Barack Obama, e parole di apprezzamento sono arrivate anche oggi dal premio Nobel Henry Kissinger in un'intervista a Repubblica. Beh, insomma, c'è più di uno spunto su questo, e infatti, nel ringraziare Livia Zancaner, ne parliamo con un nome, una voce che conoscete perché è il nostro ospite quando parliamo di temi legati al settore auto, e mi riferisco all'economista Paolo Malagodi. Buonasera, professore. Buonasera, Barisoni. Allora, la borsa ci ha scommesso, Livia Zancaner ricordava, volume record più 27% per Fiat, 6,75 euro. Va bene anche BMW, vanno bene anche altri settori, altri titoli auto a livello europeo. Mi sembra però che non, vabbè, oggi in Germania il più 40% delle immatricolazioni è un dato record dal 92, sicuramente ha spinto il settore. Su Fiat però pesa in senso positivo anche il caso Chrysler. Che cosa ci si attende da Chrysler? La piattaforma di intesa con Chrysler è indubbiamente estremamente interessante, perché non presenta duplicazioni di produzione, duplicazioni di aree produttive, anzi una grossa complementarietà di prodotti e di mercati. Quindi dal punto di vista dell'aggregazione rappresenta un ottimo, e dall'unico punto critico di questa alleanza è che nel lanciare una strategia di modelli, sia Chrysler derivati da quelle piccole Fiat che Fiat derivate dalle grandi Chrysler con trazione posteriore, delle quali Fiat col marchio Alfa Romeo avrà bisogno soprattutto negli Stati Uniti, occorrono capitali. Ora, i capitali si trovano se il progetto è buono, però io non escludo che ci sia anche un terzo soggetto, facciamo l'ipotesi, un signor ratantata che possa entrare nella partita, si è fatto questo nome, non credo invece al coinvolgimento di Peugeot, perché ci sarebbe quella sovrapposizione e non complementarietà che invece c'è nettamente tra Fiat e Chrysler. Quindi l'accordo è nettamente importante e determina una proiezione di Fiat ben diversa da quella regionale europea, in parte brasiliana, aggregandosi tutta l'area nordamericana a un progetto di livello globale. Ma lei ricordava, Malagodi, come in realtà l'accordo è interessante perché non ci siano sovrapposizioni, e poi altri osservatori in questi giorni hanno scritto e detto che Chrysler, delle tre sorelle americane, era l'unica a non avere impianti produttivi in Europa, quindi c'è anche del know-how da trasferire. Concretamente, se lei deve immaginare il frutto di questa alleanza, poi vedremo i dettagli, Il frutto dell'alleanza cosa potrebbe essere? Cioè, dei modelli un po' più piccoli che consumino meno, non solo i gipponi a cui si è abituata l'America, quindi più ecocompatibili, ma fatti cioè, più simili a quello che è la produzione giapponese? Beh, certamente, possiamo trasferire pari pari in America con poche varianti di prodotto dei modelli già del segmento C, parliamo della Bravo come marchio Fiat, parliamo della 147 o della futura 149 come marchio Alfa Romeo e ipotesi, ma non si pensa al momento di presentare il Lancia negli Stati Uniti, la stessa Delta è una vettura che si presta anche alla clientela americana, meno certamente delle Panda o delle Punto per tutta una serie di ragioni, con la 500 che potrà diventare un prodotto di nicchia come in parte lo è la Mini. Da lì in là Fiat ha una grande capacità di motorizzazioni nei piccoli ed efficienti diesel da presentare sul mercato che si appresta ad accettare le motorizzazioni diesel ecologicamente corrette con poca emissione di particolato e quindi dal punto di vista di Fiat che dà a Chrysler è chiaro il profilo di macchine del segmento medio delle compatte che non esistono nella gamma americana se non come prodotto giapponese o come prodotto europeo importato negli Stati Uniti, sia esso Golf, sia esso Opel o Ford Focus eccetera. Per quanto riguarda invece Fiat chiaramente ha in Chrysler delle motorizzazioni V6 delle quali un marchio come Alfa Romeo non potrebbe che beneficiare, ha tutte delle tecnologie di trazione posteriore che sulle grosse potenze alle quali gli americani sono abituati su vetture del tipo Mercedes o BMW potrebbe essere utilizzata da Fiat. Poi non dimentichiamo tutto quanto è il marchio Jeep con tutta la tecnologia di un 4x4 di eccellenza. Quindi i trasferimenti di tecnologia e la produzione in tempi rapidi, diciamo un paio d'anni, sono già definiti da queste semplici ipotesi, poi altre certamente ne sono state definite. Ancora, non si sta più parlando di General Motors, ora Ford è messa meglio, lo sappiamo. Ma General Motors non è che navighi in acque molto migliori, cioè Chrysler almeno ha l'aggancio e l'appiglio di Fiat. General Motors, dopo che Rick Wagoner se n'è andato, anzi è stato fatto andare via, è scomparsa dall'orizzonte. Ma credo che la situazione di General Motors e per le dimensioni che ha General Motors, non dimentichiamo che ha un profilo produttivo sui 9-10 milioni di vetture rispetto a quello di Chrysler che è 2 milioni e mezzo, 3 milioni, è ingigantito rispetto a Chrysler. Certamente o il piano di General Motors che gli specialisti di Obama stanno valutando prevede il trapianto su base americana di prodotti Opel che esistono già pronti per una traduzione come può fare Fiat nei confronti di Chrysler per attivare delle linee di produzione ecologicamente più corrette, più compatibili con ridotti consumi, parliamo di prodotti come Aster e quant'altro, o la situazione di General Motors oggettivamente a questo punto delle Big Three, essendo Chrysler agganciata all'ancora di salvataggio di Fiat, diventa la più complicata e la più complessa, ma è la dimensione del problema che la rende tale. Beh, staremo a vedere anche per quello che riguarda General Motors, sicuramente sono due casi molto diversi. Lei me la godi per concludere, quando è che si attende che da Detroit arrivino notizie più precise delle trattative in corso tra Marchionne e il numero uno della Chrysler, visto che ieri si sono visti con il segretario del Tesoro americano Tim Geithner proprio a Washington, nella sede del Tesoro americano. Ma chi conosce e ha potuto apprezzare il lavoro di Marchionne in questi anni alla FIA dal 2005 in poi, sa che Marchionne è un uomo estremamente rapido nell'attivare delle procedure, nell'arrivare a definizione dei progetti e nel deliberarli, un uomo che lavora intensamente su delle idee ben definite e fino adesso le ha sostanzialmente azzeccate. A questo punto, anche se il termine dato dal Congresso e dall'amministrazione americana è di arrivare entro aprile, io penso che nel giro di 2 settimane lo staff Fiat con la presenza di Marchionne e lo staff Chrysler arriverà a mettere nero su bianco delle definizioni precise di modelli di collaborazione, di piani di produzione e di integrazioni produttive. Questa è una mia ipotesi, conoscendo la velocità di marcia di un personaggio come Marchionne, che non arriva mai ultimo sulle linee definite a suo tempo, ma tende ad anticipare i tempi. Vedremo, vedremo in bocca al lupo chiaramente anche a Sergio Marchionne. Grazie a Paolo Malagodi. Il GR poi di nuovo in diretta, parliamo dei tassi europei scesi all'1,25% e di nuove dichiarazioni che stanno arrivando dal G20 di Londra. 349-238-6666 per i vostri sms. e 7 minuti, seconda parte di Focus Economia. E allora, dopo aver affrontato quello che stava uscendo dal G20, avete avuto gli ultimi aggiornamenti proprio dal nostro GR, accordo su una lista di paradisi fiscali, la blacklist, la lista nera, e aver parlato ampiamente di borsa, lo meritava quanto mai oggi la giornata, più 4,70% l'S&P MIB, più 6% Francoforte, l'America guadagna il 3,4% Fiat, più 27%. Adesso ci occupiamo anche della Banca Centrale Europea, ma non solo. Non c'è infatti solo la Banca Centrale Europea oggi a tenere banco. C'è un petrolio che è tornato sopra i 50 dollari, anzi sopra i 52, un euro che è in rapido rafforzamento a 1,35, mentre... Per quello che riguarda la Fiat, vedo molti messaggi su questo tema, non c'è molto di più di quello che abbiamo detto, attenzione, nel senso che c'è il dato tedesco di oggi sulle matricolazioni più 40%, il dato di ieri italiano sulle matricolazioni, bene Fiat più 6%, tornano a crescere le matricolazioni per via degli incentivi auto, e poi c'è la vicenda Chrysler, non ho altri elementi e non abbiamo nemmeno nuove notizie sul versante Detroit, dopo l'incontro di ieri tra Sergio Marchionne e Robert Nardelli, che è il numero di Chrysler nella sede del Tesoro americano, era presente anche Timothy Geithner, per cui non ci sono molte altre novità. Dall'America confermo che invece sono arrivati dei dati sui sussidi, la disoccupazione peggiori delle attese, e mi riferisco soprattutto al dato di 12.000 sussidi in più la settimana scorsa, che porta la quota totale a 669.000. La cosa importante è che sono superiori, cioè peggio delle attese, e il crollo del prezzo degli appartamenti di Manhattan, meno 11%. Il G20, ci ricollegheremo probabilmente con il nostro inviato negli ultimi minuti di questo programma, Gordon Brown, l'avete sentito, ha detto abbiamo deciso la fine dei paradisi fiscali, quindi se tanto mi dà tanto alle Cayman si andrà solo per fare il bagno, voglio vederla questa, però. Così come $1,000 del fondo monetario, stimolo fiscale da 5.000 miliardi entro la fine del 2010 a sostegno della ripresa economica mondiale, ne parleremo tra un attimo. Brown tra l'altro ha detto che non vi è stato nessuna divisione, e Sarkozy poco fa ha dichiarato il tempo del segreto bancario è finito. Io non è che devo dirla tutta, e chi lo rimpiange, tranne chi ne aveva un diretto interesse, ben venga anche la fine del segreto bancario, se poi deve portare ai disastri che abbiamo visto o dare la possibilità a Madoff e ai suoi epigoni di creare quello che ha creato. Sì, alcuni di voi scrivono il G20 a caccia di capri espiatori. Vabbè, vedetela come volete, capro espiatorio, non lo so. Io so che siamo di fronte alle peggiori recessioni economiche degli ultimi 20 anni, non mi sembra né tanto capro, anzi mi sembrano molto capri e poco espiatori, perché da qualcuno sta crisi l'avrà creata. Comunque, mentre si ragiona di questo a Londra, noi ci spostiamo a Francoforte. La Banca Centrale Europea ha tagliato di un quarto di punto, questo lo abbiamo ampiamente detto, il denaro costa adesso l'1,25% come riferimento per le banche, poi c'è lo spread e quant'altro. Però è il sesto taglio dallo scorso 15 ottobre, quando i tassi erano al 4,25%, resta una differenza intorno all'1,25% tra quanto costa da noi il denaro e quanto costa invece in America. La decisione sul taglio dei tassi l'ha spiegata così il presidente Jean-Claude Trichet. Come sempre abbiamo avuto un dibattito molto, molto approfondito sulla situazione attuale. Abbiamo analizzato lo scenario da tutti i punti di vista e abbiamo preso una decisione raggiungendo un consenso. Oggi tutti e tre i tassi, quello principale sui depositi e quello marginale, sono al livello minimo di sempre. Il tasso sui depositi è allo 0,25%, un livello molto basso. Livelli così bassi non si sono chiaramente mai visti dalla creazione dell'euro. Sono i minimi storici. Ripeto, oggi abbiamo esaminato la situazione da tutti i punti di vista e abbiamo deciso per consenso. Se è il livello più basso, dirò molto sinceramente che per il tasso principale non è il livello minimo. Non escludo che in modo molto, molto misurato possiamo scendere ulteriormente. In a very measured way, go down from the present level. Leda Romano, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. Prima di arrivare all'analisi del costo del denaro, di quello che è dentro la Banca Centrale Europea, dell'inflazione che secondo la BCE sarà negativa, quindi deflazione a metà anno, vorrei capire se mentre si riuniva oggi a Francoforte il board, il comitato della Banca Centrale Europea, quanto gli occhi fossero puntati su Londra. Credo che in parte sì, insomma, i banchieri centrali erano interessati a quello che stava avvenendo a Londra, ma devo dire che avevano parecchio in agenda oggi, perché dovevano decidere come tagliare i tassi e decidere se per caso dovevano annunciare altre misure di politica monetaria. Hanno, come ha detto Trichet, discusso molto, quindi per rispondere alla domanda ho l'impressione che i banchieri centrali avessero altri problemi da risolvere proprio oggi. Quindi tu dici avevano anche le loro cose da risolvere. Veniamo alla decisione. Io vorrei però sapere se a Francoforte, o come a Francoforte, è stata letta anche questo G20. È chiaro che la BCE si è riunita a ora di pranzo, quando si era ancora in alto mare a Londra, quanto a trattative. Ma qualche commento tu l'hai ricevuto, l'hai raccolto? Erano ottimisti per una soluzione di questa riunione, quindi posso immaginare che hanno accolto positivamente le notizie uscite da Londra. Ripeto, la Banca Centrale oggi era estremamente preoccupata da una serie di decisioni che doveva prendere. Questo non vuol dire naturalmente che si è completamente disinteressata delle vicende londinesi, ma aveva una riunione importante che è durata 2 giorni, e da cui sono emerse alcune novità importanti di politica monetaria. Poi, come ricordavamo, è arrivato tutto il resto invece delle notizie, fine dei paradisi fiscali, fine del segreto bancario, recitano forse un po' pomposamente Gordon Brown e Sarkozy. Io finché non la vedo non ci credo. Comunque, le informazioni per chi è in viaggio, e poi invece ci racconti come si è arrivato a questo taglio, quali siano le previsioni della Banca Centrale Europea anche con questo côté che riguarda l'inflazione. 349-238-6666 per gli sms. Allora, Beda Romano, taglio di un quarto di punto, c'era chi si attendeva a mezzo punto percentuale, alcuni delusi in realtà? Ma credo che la banca la decisione di oggi è dovuta fondamentalmente alle divisioni interne alla banca, probabilmente una riduzione di 25 punti base è una riduzione compromesso fra due visioni, fra una visione più estremista di coloro che pensano che il tasso di riferimento possa scendere ben sotto l'1% e quindi avvicinarsi allo zero, e chi invece pensa che il costo del denaro in Europa non debba scendere sotto l'1%. Chi pensa che il tasso possa scendere a zero probabilmente oggi ha spinto per una riduzione del costo del denaro più aggressiva. Chi invece pensa che ci si debba fermare all'1% ha invece premuto per una riduzione più graduale del costo del denaro. Ma al di là di questa decisione, al di là di questo dibattito di fondo tra i banchieri centrali, la notizia di oggi è che in maggio la BCE annuncerà nuove misure non convenzionali di politica monetaria. Sì, lo ha detto Trichet, misure non convenzionali, a me ricorda le armi non convenzionali, cosa saranno? Ma la banca centrale di solito si limita a ridurre il costo del denaro fondamentalmente, ridurre o ad aumentare il costo del denaro, questo è il modo migliore ed è il modo più classico per una banca centrale di controllare la massa monetaria, però la BCE si sta rendendo conto che non può limitarsi ad abbassare il costo del denaro e sta riflettendo su nuove misure. Una delle possibilità naturalmente è l'acquisto sul mercato di obbligazioni, cosa che altre banche centrali stanno già facendo negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Giappone. La banca centrale non lo ha ancora fatto e ha spiegato che in maggio prenderà una decisione su questo aspetto. Quindi credo che la decisione anche di ridurre il costo del denaro solo di 25 punti base sia legata proprio a questo aspetto. La banca vuole in maggio annunciare sia una nuova riduzione del costo del denaro, sia possibili misure non convenzionali di politica monetaria. La cosa più probabile in questo momento è che la banca decida di allungare le operazioni di rifinanziamento al sistema bancario, che oggi si limitano a 6 mesi e potrebbe portarle a 12 o addirittura 24 mesi. E questo sarebbe di grande sollievo probabilmente per le banche, perché le banche potrebbero rifinanziarsi presso la Banca Centrale Europea a un tasso fisso, che sarà probabilmente dell'1%, per un ammontare totalmente libero e per periodi lunghissimi. Ed è, credo, questa la direzione in cui si sta muovendo la BCE. Altro tema, l'inflazione, lo ricordavo, c'è sempre una previsione sull'inflazione quando interviene la Banca Centrale Europea, perché prima che scoppiasse questa crisi era il metro su cui la Banca Centrale Europea poggiava, che utilizzava per decidere se tagliare o aumentare i tassi di interesse. Sentiamo le previsioni. Gli ultimi dati disponibili confermano che l'economia globale, inclusa quella dell'area euro, sta vivendo un momento di forte frenata. La domanda sia mondiale che della zona euro probabilmente rimarrà molto debole nel 2009, prima di riprendersi in modo graduale nel corso del 2010. Il calo dell'inflazione a partire dalla scorsa estate riflette innanzitutto la forte discesa dei prezzi delle materie prime. Inoltre, stanno emergendo sempre di più segnali di una riduzione delle pressioni inflazionistiche. Ci aspettiamo di vedere l'inflazione scendere ancora nei prossimi mesi e passare temporaneamente in territorio negativo a metà dell'anno. In seguito dovrebbe risalire di nuovo. Guardando più in avanti, le attese sono per un'inflazione al di sotto del 2% nel 2010. Deflazione o un periodo di inflazione leggermente negativa e poi diciamo, tutto sommato l'anno avrà un'inflazione bassa, ma sempre inflazione? La banca in questo momento continua a parlare di disinflazione, ossia di un processo di riduzione dell'inflazione che potrebbe portare a metà anno a un tasso di inflazione negativo, leggermente negativo, ma sarà un periodo molto temporaneo che durerà alcuni mesi e a un certo punto l'inflazione dovrebbe tornare ad essere positiva e tornare a salire intorno al 2%. La banca non vuole parlare di deflazione, naturalmente la si capisce. Se una banca centrale dovesse iniziare a questo punto a parlare veramente del rischio di deflazione, rischia di creare la profezia in un certo senso, rischia di creare la possibilità, certo, veramente che ci sia deflazione. Quindi la banca parla di disinflazione e porta come argomento, come prova del suo ragionamento, il fatto che le aspettative di inflazione nella zona euro a medio termine, derivanti dai mercati, derivanti dalle aspettative degli economisti, eccetera, mostrano in effetti che l'inflazione da qui al prossimo futuro, ai prossimi 5 anni, è fondamentalmente stabile, poco sotto il 2%. Disinflazione sembra quasi un artificio retorico, però è una cosa un po' diversa, come tu ricordavi, dalla deflazione vera e propria. Tutto sommato potrebbe anche non essere una cosa negativa, lo ripetiamo, per il reddito fisso, i salari da lavoro dipendente. Grazie Bella Romano in collegamento con noi da Francoforte. Da Francoforte torniamo a Londra e torniamo quindi con Sergio Nava. Sergio, buonasera. Buonasera. Dunque, finita la conferenza stampa di Gordon Brown, è iniziata poco fa quella del Presidente del Consiglio Berlusconi. Sì, nel frattempo si è già conclusa, quindi anche si sta piano piano concludendo anche questo vertice G20. Silvio Berlusconi ha esordito dicendo: sono state smentite le previsioni pessimistiche della vigilia, abbiamo mostrato una volontà di cooperare e abbiamo verificato un piano di rilancio dell'economia. Abbiamo deciso che gli stati del G20 si impegneranno in misure per la ripresa economica e abbiamo varato un piano globale. Sia Berlusconi e Tremonti hanno quantificato in 1.100 miliardi di dollari, diciamo, il quantitativo di denaro immesso all'interno del circuito finanziario globale per risollevare l'economia, e hanno anche detto che ci sarà un terzo G20, cosa tra l'altro anche anticipata a Gordon Brown, e hanno però rivelato che sarà probabilmente in Giappone più avanti quest'anno. Veniamo a Gordon Brown, perché lui, Sarkozy, insomma, le dichiarazioni sono state quantomeno trionfali. È la fine dei paradisi fiscali, ha detto Gordon Brown, e Sarkozy ha detto: il tempo del segreto bancario è finito. Sergio. Diciamo che sicuramente c'è un che di trionfalistico nelle dichiarazioni finali di questo G20. Sicuramente nelle intenzioni di tutti c'è la volontà di cambiare veramente le regole del gioco, e probabilmente in un certo senso il mondo è cambiato, nel senso che ora si ragiona a 20 e forse non più a 8. Il G8 sta perdendo progressivamente di significato, la stessa Russia oggi è stata esplicita nel dirlo, ormai bisogna ragionare a più paesi. Sicuramente però lo stesso Gordon Brown a un certo punto ha detto: ci vedremo più avanti quest'anno per verificare che le misure siano implementate. Quindi a parole tutto bene, denaro è stato immesso, però poi ovviamente da qui, da oggi, bisognerà verificare che questi risultati, che questa volontà di combattere i paradisi fiscali sia effettivamente poi messa in atto. Allora, manca a questo punto, Sergio, per capire anche l'ordine degli interventi, solo la conferenza stampa di Barack Obama? Sì, a quanto pare sì, a quanto pare era l'ultima almeno in programma, in calendario, dovrebbe iniziare tra 20 minuti circa, però ovviamente poi saranno tutti da verificare, però effettivamente ormai manca solo lui. Ecco, ci chiedono gli ascoltatori, chiaramente è una notizia marginale, però marginale rispetto al programma, ci mancherebbe, se vi sono stati altri scontri nel frattempo. La situazione oggi è un po' migliore rispetto a quella di ieri? Non ho testimonianza diretta perché, diciamo, sei chiuso dentro, sì, certo, chiusi in un centro isolato dal resto del mondo, però posso dire che da quello che ho visto la tensione si è molto calmata, poche centinaia di manifestanti, però leggevo sul sito della ZDF, la TV tedesca, in realtà ora si teme per il vertice NATO di Strasburgo, che è il che comincia poi domani. Vabbè, per ora, da quello che capiamo, poi vedremo che cosa uscirà anche in serata con le analisi. La cosa più importante che questo G20 ha deciso è il nuovo ordine mondiale. Io ancora non ho capito, ma non lo capisco perché stanno uscendo adesso le agenzie. Nuovo ordine mondiale significa soprattutto fine dei paradisi fiscali, del segreto bancario, e priorità, come ha detto anche Gordon Brown, per il lavoro e per la casa, con un accordo per uscire dalla crisi che dovrebbe prevedere uno stimolo fiscale, anche qui non meglio precisato, da 5.000 miliardi di dollari entro la fine del 2010, e praticamente il Fondo Monetario che arriva da quadruplicare quasi la sua disponibilità, da 200 miliardi passa a 1.000 miliardi di dollari. Grazie a Sergio Nava. Da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi in ascolto di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi in diretta dal Vinitaly. Allegria. Radio 24. La passione si sente.